Quando si trova il modo. Quella sera, mentre papà suonava, Laura si sentì un po' riconfortata. 2 settimane erano andate, ne restavano soltanto 6. Poteva tentare di farcela. Ma un tratto la musica cessò e papà chiese: "Che c'è che non va, Laura? Non vuoi sfogarti?" Lei non voleva che i suoi genitori si preoccupassero, perciò aveva deciso di non raccontare in casa che le cose positive, ma ora, suo malgrado, sbottò: "Oh, pa, non so proprio come farò ad andare avanti." E raccontò tutto. "Che posso fare? Qualcosa devo pure escogitare, non posso non farcela, ma vedo bene che le cose non vanno. Vorrei tanto essere abbastanza alta e robusta per punire Clarence, è quello che si meriterebbe, ma come faccio a picchiarlo grande e grosso com'è?" "Perché non chiedi aiuto al signor Brewster?" disse Carrie. "Lui sì che potrebbe far abbassare la cresta a quel Clarence." "Ma Carrie," esclamò Laura, "non posso mica dire al consiglio scolastico che non so trovare il modo di andare avanti da sola. No, così non va." "È lì la soluzione, Laura," disse papà, "in quelle 3 parolette, trovare il modo. Magari non riusciresti a ottenere nulla da Clarence, nemmeno se fossi abbastanza grande da punirlo come merita. Ognuno di noi è nato libero, lo sai. C'è anche scritto nella dichiarazione di indipendenza. Un cavallo lo puoi portare al fiume, ma non puoi costringerlo a bere. E bene o male, nessuno può costringere Clarence a far nulla tranne lo stesso Clarence. Meglio cercare un modo per tirare avanti come si può." "Sì, lo so, pa," disse Laura, "ma come?" "Beh, prima di tutto sii paziente. Cerca di vedere le cose dal suo punto di vista, se riesci. Non cercare di costringerlo, tanto non ci riusciresti. Da quello che racconti non sembra un ragazzo cattivo." "No, non è cattivo," disse Laura, "è che non so come prenderlo." "Beh, se fossi in te," si intromise mamma con dolcezza, e Laura pensò che anche lei una volta era stata maestra, "lo lascerei fare senza badagli. Vuole attenzione, per questo si comporta così. Sii gentile e garbata con lui, ma rivolgi tutta la tua attenzione agli altri e cerca di far lavorare loro. Clarence ti verrà dietro per conto suo." "È così, Laura. Fai come dice tua madre," disse papà, "astuta come un serpente e dolce come una colomba." "Charles!" esclamò mamma. Papà prese il violino e, lanciandolo un'occhiata maliziosa, si mise a cantare: "Sa far la torta di ciliegie, caspiterina, che novità! Sa far la torta di ciliegie e ce n'è sempre a volontà." Domenica pomeriggio, mentre con la slitta volavano sulla prateria innevata scintillante di sole, al manzo Wilder disse: "La rallegra tornare a casa per il fine settimana. Mi son fatto l'idea che sia dura stare dai Brewster." "Ma è la mia prima scuola e non sono mai stata lontana da casa," rispose Laura. "Soffro di nostalgia, le sono molto riconoscente per il fatto che fa tanta strada per portarmi a casa." "Oh, è un piacere," rispose lui. Era gentile da parte sua dire così, ma Laura non vedeva che piacere potesse trarre da tutto quell'andare avanti e indietro nel gelo. Era tanto se scambiavano 2 parole in tutto il tragitto, perché faceva troppo freddo per chiacchierare, e lei sapeva benissimo che comunque non sarebbe stata di compagnia, non trovava mai nulla da dire agli estranei. I cavalli erano così accaldati per la corsa che non li si poteva tenere fermi neppure un istante, e così, non appena la slitta si fermò davanti alla casa dei Brewster, Laura saltò giù e fu un attimo. Mentre la slitta ripartiva, lui si toccò il berretto con la mano guantata e gridò, sopra il tintinnio dei campanelli: "Arrivederci a venerdì!" Laura si sentì in colpa. Non si era mai neppure lontanamente immaginata che lui dovesse fare quel viaggio avanti e indietro tutte le settimane. Sperava di non avergli mai lasciato pensare che se lo aspettasse, e lui non poteva certo avere in mente di magari di farle la corte. Aveva quasi fatto l'abitudine alla tetra atmosfera di casa Brewster. Bastava pensarci il meno possibile, studiare fino all'ora di andare a letto, alzarsi la mattina dopo, fare il letto, ingoiare la colazione, asciugare i piatti e uscire per andare a scuola. Mancavano solo 6 settimane ora. Lunedì mattina la scuola cominciò male come era finita venerdì, ma Laura era decisa a fare in modo che le cose cambiassero e si mise subito all'opera. Quando Tommy ebbe finito di leggere laboriosamente la pagina che gli aveva assegnato di compito, Laura disse: "Stai migliorando, Tommy. Meriti un premio. Che ne dici di ricopiare la lezione di ortografia sulla lavagna?" Tommy sorrise e Laura gli dette il libro di ortografia e un gessetto nuovo. Quando ebbe finito, lo lodò per la bella grafia e disse che ora poteva imparare a scrivere quelle parole dalla lavagna. Poi passò il lavoro di ortografia a Ruby. "Hai letto molto bene, Ruby. Anche tu meriti un premio. Domani potrai copiare la lezione di ortografia del giorno sulla lavagna, d'accordo?" Oh, sì, signorina, esclamò Ruby tutta contenta e Laura pensò, ecco, questa è fatta. Per tutto il tempo Clarence non aveva fatto altro che agitarsi sulla sedia, far cadere i libri a terra, tirare i capelli a Marta, ma rammentando il consiglio di mamma, Laura fece finta di non accorgersene. Dal canto suo, la povera Marta fece scena muta in grammatica. Aveva una tale confusione in testa tra proposizioni principali e secondarie che aveva deciso di lasciar perdere. Non fece che rispondere, non lo so, non lo so. Ti toccherà riprendere questa parte da capo, Marta, dovette dirle Laura. Ma poi ebbe un'ispirazione. Senti, voglio ripassarla anch'io. Sto cercando di tenermi in pari con la mia classe in paese e l'analisi grammaticale e sintattica è difficile. Possiamo riprendere questa lezione insieme nell'intervallo di pranzo, ti va? Oh sì, disse Marta. Nell'ora di pranzo, quando ebbero finito di mangiare, Laura aprì il libro di grammatica e disse: Pronta, Marta? Marta ricambiò il sorriso. Allora Clarence chiese: È per questo che lei studia sempre? Per tenersi in pari con la sua classe in paese? Sì, studio la sera, ma non basta, devo fare qualcosa anche qui, rispose Laura, passandogli accanto per andare alla lavagna. Clarence fece un fischio a mezza voce, ma lei non gli badò. Alla lavagna aiutò Marta ad analizzare una frase dopo l'altra finché non riuscì a fare un esercizio da sola. Adesso ho capito, esclamò alla fine. Ora non mi fa più paura l'interrogazione di grammatica. Ecco qual era il problema, dunque. Marta aveva tanta paura di non capire che aveva deciso di lasciar perdere tutto. Beh, se non capisci qualcosa, non lasciarti spaventare, le disse Laura. Possiamo sempre lavorarci insieme, come abbiamo fatto oggi. Gli occhi scuri di Marta scintillavano quasi come quelli di Aida quando rispose: Magari qualche volta sì, grazie. Laura pensò che se non fosse stata la maestra, lei e Marta avrebbero potuto diventare amiche, avevano la stessa età. Aveva deciso anche come comportarsi con Clarence. A furia di non studiare le lezioni di storia, era rimasto molto più indietro di Marta e di Charles, ma quel giorno Laura gli fece solo domande a cui sapeva rispondere. E quando assegnò il compito per il giorno dopo, disse: Naturalmente questo non riguarda te, Clarence, perché avresti troppe pagine da studiare. Vediamo dove sei arrivato. Lui indicò il punto del libro. Quante pagine pensi di poter fare? Tre? Sono troppe? No, rispose lui. Non avrebbe potuto dire altrimenti. Con un compito così risibile non c'era nulla da contestare. Bene, allora per oggi abbiamo finito, disse Laura, chiedendosi cosa avrebbe combinato Clarence l'indomani. Per il momento, comunque, i consigli di papà e mamma avevano funzionato, ma chissà se sarebbero stati altrettanto utili con lui. Il giorno dopo Laura non gli fece molte domande, ma era evidente che Clarence quelle tre pagine le aveva imparate alla perfezione. Charles e Marta erano 9 pagine più avanti. Per il giorno dopo Laura ne assegnò altre 7, ma Clarence disse: Te la senti di studiare altre 3 pagine o sono troppe? Decidi tu quante puoi farne. Sì, le faccio, disse Clarence e per una volta le rivolse un sorriso aperto e sincero. Laura ne fu così stupita che le venne quasi da ricambiare, ma riuscì a restare impassibile e disse: Fanne meno se non ce la fai. Le faccio, ripeté lui. Benissimo, disse Laura, per oggi abbiamo finito. Si stava adattando al ritmo di quelle giornate, colazione nel freddo del primo mattino, senza scambiare una parola con nessuno, camminata nella neve fino alla gelida baracca che fungeva da scuola. Poi le ore di scuola, scandite dalle interrogazioni e divise in 4 periodi uguali, da 2 intervalli e dalla lunga pausa di pranzo. Ritorno a casa dei Brewster, cena senza scambiare una parola, serata di studio, notte sull'angusto divano. La signora Brewster era sempre ugualmente scostante e antipatica, ma ora litigava di rado col marito. Passò anche quella settimana e venne venerdì. Quando Laura chiamò la classe di storia per l'interrogazione, Clarence disse: Può chiedermi tutte le pagine fino a dove sono arrivati Marta e Charles, mi sono messo in pari. Laura lo guardò stupita. Ma come hai fatto, Clarence? Beh, se lei può studiare di sera, posso farlo anch'io, rispose lui. Laura gli sorrise. Non fosse stata la maestra, lo avrebbe trovato simpatico e avrebbe fatto amicizia anche con lui. Aveva negli occhi scuri lo stesso scintillio che Laura conosceva in quegli azzurri di papà. Ma qui lei era la maestra. Bravo, disse. Così ora potete andare avanti tutti e tre allo stesso passo. Alle 4 si sentì il tintinnio dei campanelli e Clarence mormorò: Arriva il bello della maestra. Laura si sentì avvampare, ma disse con calma: Potete mettere via i libri, per oggi abbiamo finito. Temeva che Clarence gridasse di nuovo qualcosa che la mettesse in imbarazzo, invece tacque. Era già sulla strada di casa con Ruby e Tommy, quando Laura si chiuse la porta alle spalle e salì sulla slitta. Un coltello nel buio. Era passata la terza settimana e passò anche la quarta. Ora ne restavano soltanto quattro. E anche se ogni mattina Laura temeva la giornata che l'aspettava, nulla a scuola era sgradevole quanto le ore a casa dei Brewster. Ogni pomeriggio alle quattro tirava un sospiro di sollievo. Un altro giorno era filato liscio. Non c'erano ancora state vere bufere, ma in febbraio la temperatura aveva continuato a scendere. Il vento tagliava come un coltello. Ogni venerdì e ogni domenica il manzo Wilder aveva fatto tutta quella strada nel gelo per portarla a casa nel fine settimana. Laura non sapeva come sarebbe riuscita ad arrivare al venerdì se non avesse avuto quella speranza, ma le spiaceva per Almanzo Wilder, che da tutti quei viaggi non aveva nulla da guadagnare. Si sentiva a disagio, per quanto desiderasse tornare a casa ogni settimana, non voleva sentirsi tanto in obbligo con nessuno. Accettava il passaggio solo perché voleva tornare a casa. Lui però questo non lo sapeva. Magari si aspettava che continuasse ad andare in slitta con lui anche quando fosse tornata in paese. No, lei non voleva obblighi in quel senso, ma non poteva nemmeno far finta di nulla o ingannarlo. Pensava di doverglielo spiegare chiaramente, ma non sapeva come fare. A casa mamma si preoccupava perché la trovava sempre più magra. Sei sicura che ti danno abbastanza da mangiare dai Brewster? Chiese una sera. Sì, ma più che abbastanza, solo nulla è buono come a casa. Laura, lo sai, vero, che non sei obbligata a stare là fino alla fine dei 2 mesi? Disse papà. Se c'è qualcosa che ti preoccupa troppo, puoi sempre tornare a casa. Oh no, pa! Esclamò Laura. Non posso mollare a metà, non potrei più prendere il diploma, e poi ormai mancano solo 3 settimane. Ho paura che tu studi troppo, disse mamma. Hai l'aria di chi non dorme abbastanza. Ma vado a letto tutte le sere alle 8, la rassicurò Laura. Beh, come hai detto anche tu, restano solo 3 settimane, disse mamma. Nessuno in casa sapeva quanto aveva in orrore il pensiero di un'altra settimana dai Brewster, ma non sarebbe servito a niente sfogarsi con loro. Tornare ogni venerdì sera la rincuorava e le dava il coraggio necessario ad affrontare la settimana successiva. E però continuava a pensare che non fosse giusto accettare tanto dal Manzo Wilder. Anche quella domenica lui venne a prenderla per riportarla dai Brewster. Non parlavano quasi mai durante il tragitto, faceva troppo freddo. I campanelli mandavano un tintinnio di ghiaccio e la slitta filava così veloce che il vento del nord, alle loro spalle, quasi non riusciva a starle dietro. Andando in là non era così terribile, ma al ritorno lui lo avrebbe avuto sempre in faccia. Non mancava più molto alla baracca dei Brewster, quando Laura si disse: «Basta, smettila di temporeggiare», e buttò fuori quello che l'angustiava. Accetto il passaggio perché desidero tornare a casa, ma quando starò di nuovo a casa mia non succederà più. Ecco, ora lo sa, così se vuole può risparmiarsi di fare tanta strada con questo freddo. Le parvero orribili quelle parole, già mentre le diceva, così brusche, scortesi e antipatiche. Nello stesso momento ebbe la percezione spaventosa e terribile di che cosa sarebbe successo se lui non fosse più venuto a prenderla. Sarebbe dovuta restare tutto il sabato e tutta la domenica con i Brewster. Dopo un attimo di sconcerto, lui disse lentamente: «Ah, ho capito». Non ci fu tempo per dire altro. Erano arrivati davanti alla porta dei Brewster e i cavalli non dovevano stare fermi neppure un istante. Laura saltò giù dicendo: «Grazie». Lui la salutò toccandosi il cappello e la slitta ripartì di volata. «Mancano solo 3 settimane», si disse Laura. Ma non si era mai sentita così sgomenta e abbacchiata. Per tutta la settimana la temperatura continuò a scendere. Giovedì mattina Laura scoprì che mentre dormiva le coperte le si erano ghiacciate attorno al naso. Aveva le dita così intirizzite che fece fatica a vestirsi. Nell'altra stanza la stufa era bollente, eppure sembrava che il calore non riuscisse a sconfiggere il gelo tutt'attorno. Laura aveva le mani tese verso il fuoco per cercare di scaldarle, quando il signor Brewster piombò dentro, si levò gli stivali in fretta e furia e prese a massaggiarsi i piedi vigorosamente. La moglie gli si precipitò accanto. «Oh, Lewis, che hai?» chiese con una sollecitudine che stupì Laura. «I piedi!» rispose lui. «Ho fatto tutta la strada di corsa dalla scuola, ma non li sento più!» «Ti aiuto io!» disse la moglie, e mettendosi i piedi del marito in grembo, prese a massaggiarli con forza anche lei. Sembrava un'altra, tanto era sollecita e gentile. «Oh, Lewis, che paese orribile è questo!» disse. E poi: «Ma ti sto facendo male!» Continua, disse il signor Brewster, segno che si sta riattivando la circolazione. Quando fu certo di essersi salvato i piedi, il signor Brewster disse a Laura di restare a casa. Se esci ti congeli. Ma i ragazzi verranno, io devo esserci. Non credo che verranno. Comunque ho acceso il fuoco. Se vengono possono scaldarsi e tornarsene a casa. Oggi niente scuola. Laura non obiettò. Una maestra è tenuta a obbedire al capo del consiglio scolastico. Fu una giornata lunghissima, disperante. La signora Brewster la passò seduta accanto alla stufa, avvolta in una coperta e più immusonita del solito. Il signor Brewster aveva male ai piedi, Johnny era agitato e febbricitante. Laura lavò i piatti, rifece il letto e si mise a studiare. Quando cercava di dire qualcosa, il silenzio ostinato della signora Brewster assumeva un che di minaccioso. Finalmente giunse l'ora di andare a dormire. Se solo l'indomani avesse potuto tornare a scuola. Per il momento l'unico suo rifugio era il sonno, ma nella camera da letto il gelo toglieva il respiro. Aveva le mani così intirizzite che fece fatica a spogliarsi e anche quando si fu infilata sotto le coperte, le ci volle un pezzo prima di smettere di tremare e riuscire a scaldarsi tanto da prendere sonno. La svegliò un urlo. Era la signora Brewster che gridava: «Mi hai preso a calci!» «Non è vero», disse il signor Brewster, «ma lo farò se non metti giù quel coltello». Laura balzò a sedere. Dalla finestra sopra il suo letto entrava il chiaro di luna. La signora Brewster urlò di nuovo, un urlo selvaggio, senza parole, che le fece accapponare la pelle. «Riporta quel coltello in cucina», disse il signor Brewster. Laura sbirciò da dietro la tenda. Nel tenue chiarore della luce lunare, che filtrava attraverso la cotonina, vide la signora Brewster in piedi in mezzo alla stanza con la lunga camicia di flanella che spazzava il pavimento e i capelli sciolti sulle spalle. Nella mano levata brandiva un coltellaccio. Laura si sentì ghiacciare il sangue nelle vene. «Se non posso tornare a casa in un modo, ci tornerò in un altro!» gridò la signora Brewster. «Riporta quel coltello dove lo hai preso!» disse il signor Brewster senza muoversi dal letto, ma si capiva che era pronto a scattare in piedi. «Allora, sì o no?» gridò la moglie. «Ti prenderai un accidente lì al freddo», disse lui. «Non ricominciamo a discutere a quest'ora di notte. Ho te e Johnny da mantenere e nient'altro al mondo che questa concessione. Metti giù il coltello e vieni a letto se non vuoi morire di freddo». Il coltello smise di tremare. La signora Brewster stringeva il manico nel pugno con tutte le sue forze. «Riportalo in cucina», le ordinò il marito. Dopo qualche istante, lei gli girò le spalle e andò di là. Ma Laura non lasciò ricadere la tenda finché non la vide tornare a letto. Solo allora si rimise giù, tirandosi le coperte fino al mento, ma rimase a fissare la tenda con gli occhi spalancati. Era terrorizzata, non voleva riaddormentarsi. E se si fosse svegliata con quella donna spaventosa che le brandiva il coltello sulla testa? Sapeva che la signora Brewster la detestava. Che fare? La casa più vicina era 1 miglio di distanza. Sarebbe morta assiderata prima di arrivarci. Restò sveglia a fissare la tenda con le orecchie tese, ma non si sentiva altro rumore che il fischio del vento. La luna tramontò e lei restò con gli occhi spalancati nel buio finché dalla finestra vide entrare il grigio chiarore dell'alba. Quando sentì il signor Brewster accendere la stufa e la moglie affaccendarsi al fornello, si alzò e si vestì. Nonostante i suoi timori, non accadde nulla di diverso dal solito. Fecero colazione senza dire una parola e appena poté scappare via, Laura uscì per andare a scuola. Là, quantomeno, si sentiva al sicuro. Era venerdì. Soffiava un vento spaventoso. Per fortuna non era una vera e propria bufera di neve, anche se le raffiche elevavano frammenti di neve ghiacciata da terra e li soffiavano dentro da ogni fessura delle due pareti esposte a nord e a ovest. Spifferi gelidi entravano da tutte le parti. Per quanto carbone ci mettessero dentro, la stufa non sembrava in grado di sconfiggere il freddo. Quando ordinò di fare silenzio per cominciare la lezione, Laura si accorse di avere i piedi intirizziti e le dita così insensibili da riuscire a stento a tenere la matita in mano. Pure il suo tavolo era vicino alla stufa, nei banchi doveva fare ancora più freddo. «È meglio che vi mettiate il cappotto», disse. «Venite tutti vicino alla stufa, farete a turno a sedervi nel primo banco e gli altri staranno in piedi lì accanto. Farete quello che riuscite». Per tutto il giorno dalle fessure entrarono folate di neve ghiacciata. L'acqua nel secchio gelò. A mezzogiorno, prima di mangiare, dovettero far scongelare il pranzo sulla stufa. La temperatura continuava a scendere. Ma tutti si comportarono così bene che Laura si sentì rincuorata. Nessuno approfittò della situazione insolita per poltrire o disturbare i compagni. Nessuno cercò di chiacchierare. Stettero tutti buoni buoni accanto alla stufa, girandosi di tanto in tanto per scaldarsi la schiena e cercando di studiare le pagine assegnate. Quando Laura li interrogò, tutti risposero alle domande. Charles e Clarence fecero a turno ad andare fuori a riempire il secchiello del carbone per mantenere acceso il fuoco. Laura pensava con terrore alla fine della giornata. Era spaventata all'idea di tornare a casa Brewster. Aveva un gran sonno, sapeva di dover dormire, ma la terrorizzava il pensiero di addormentarsi con la signora Brewster nei paraggi. Tutto il giorno dopo e ancora quello successivo le sarebbe toccato stare chiusa là dentro con quella donna. E per buona parte del tempo il signor Brewster sarebbe stato nella stalla. Pensava a quello che le aveva sempre detto papà: non bisogna cedere alla paura. Probabilmente non sarebbe successo nulla. In fondo, non aveva davvero paura della signora Brewster. Sapeva di essere molto più veloce di lei all'occorrenza ed era forte come un cavallino normanno. Questo però valeva solo quando era sveglia. Oh, mai come quel giorno aveva desiderato tornare a casa. Era giusto aver detto la verità ad Almanzo Wilder. Certo, forse sarebbe stato meglio aspettare ancora un po'. Vero che con quel freddo lui non sarebbe venuto comunque. Il vento sembrava farsi sempre più forte e sempre più gelido. Alle 3:30 erano tutti così intirizziti che Laura si chiese se non fosse il caso di mandarli a casa. La preoccupava soprattutto il miglio di strada che dovevano fare Charles e Martha. E d'altro canto, che diritto aveva di ridurre l'orario scolastico di propria iniziativa? In fondo, quella non era una vera e propria bufera. A un tratto sentì il tintinnio dei campanelli. Si avvicinavano. Un attimo dopo erano lì. Prince e Lady passarono davanti alla finestra e Clarence esclamò: «Quel Wilder deve essere più idiota di quanto lo facevo a venire fin qui con questo tempo». «Potete mettere via i libri», disse Laura. I cavalli non potevano stare fermi ad aspettarla. Il freddo aumenta. Prima arrivati a casa, meglio è. Per oggi abbiamo finito. Una corsa nel gelo. Attenta alla lanterna, fu l'unica cosa che disse Almanzo quando lei salì sulla slitta. Sul sedile erano stese una sopra l'altra le coperte dei cavalli e al fondo, sotto il viluppo di coltri di pelo di bisonte, c'era una lanterna accesa per scaldare un po' la nicchia dove posavano i suoi piedi. Quando la vide entrare di corsa, il signor Brewster disse: «Non penserai mica di fare il viaggio con questo freddo?» «Sì», rispose Laura. Non perse un secondo. In camera si mise addosso anche l'altra sottoveste di flanella e si infilò un paio di calzerotti di lana sopra le scarpe. Mise doppio il velo di lana nera, se lo girò due volte attorno alla faccia e sopra il cappuccio e si avvolse le estremità a mo' di sciarpa attorno al collo. Poi mise anche la sciarpa, ne incrociò i capi sul petto e si abbottonò il cappotto fino al mento e tornò fuori di corsa. Il signor Brewster era lì accanto alla slitta. «Siete pazzi!» stava dicendo. «È rischioso!» Si rivolse a Laura. «Digli che si fermi qui questa notte!» «Preferisce non rischiare il viaggio?» le chiese Almanzo. «Lei torna indietro?» chiese Laura a sua volta. «Sì, ho le bestie da accudire. Allora vengo anch'io!» Prince e Lady partirono subito, in faccia al vento. L'aria ghiacciata passò tutti gli strati di lana che Laura aveva sulla faccia e le tolse il respiro. Lei chinò subito la testa in avanti contro il vento, ma se lo sentì scorrere lo stesso, come acqua ghiacciata sulle guance e sul petto. Strinse i denti perché non si mettessero a battere. I cavalli andavano di lena, gli zoccoli picchiavano sulla neve dura e i campanelli tintinnavano. Era contenta che andassero così veloci perché voleva dire che sarebbero arrivati prima. Le dispiacque quando si accorse che rallentavano. Poco dopo si misero al passo. Pensò che fosse stato Almanzo a trattenerli. Forse quando correvano controvento ogni tanto bisognava farli riposare. Ma poi Almanzo li fermò del tutto e scese dalla slitta. Attraverso i due strati del velo, Laura lo vide avvicinarsi alle teste ciondolanti e posare la mano guantata sul muso di Prince, dicendo: «Un attimo solo, Lady». Dopo qualche istante tirò via la mano con un movimento come se grattasse qualcosa e Prince scosse la testa facendo tintinnare i campanelli. Poi Almanzo fece la stessa cosa a Lady che a sua volta tirò sulla testa. Dopodiché risalì sulla slitta e ripartirono di buon trotto. Il velo le si era trasformato in una piastra ghiacciata davanti alla bocca che rendeva difficoltoso parlare, sicché Laura non disse nulla, ma non capiva che cosa era successo. Almanzo aveva il cappello di pelliccia tirato fin quasi sugli occhi e la sciarpa che saliva a coprire anche il naso. Il fiato gli si era ghiacciato lungo il bordo del berretto e della sciarpa. Stringeva le redini con una mano sola, tenendo l'altra al riparo sotto le coperte, e le alternava spesso in modo da non congelarsi nessuna delle due. Dopo un po', i cavalli rallentarono di nuovo e di nuovo lui scese dalla slitta e andò a posargli la mano sul muso. Quando ripartirono, Laura chiese: "Che succede?" "Il fiato gli si ghiaccia sul naso e non riescono più a respirare, bisogna levarglielo." Non dissero altro. A Laura venne in mente la mandria che vagava nella prateria durante la precoce bufera ottobrina che aveva segnato l'inizio del terribile inverno dell'anno precedente. Il fiato ghiacciato intorno al muso aveva rischiato di soffocare quelle povere bestie. Sarebbero morte se non fosse intervenuto papà a spaccarlo via.